Quindi abbiamo qui il testo del Kitzur Shulchan Aruch, le regole della Tefilah, come scritto qui sopra, Kitzur Shulchan Aruch Ilchot Tefilah, che è Siman Yud Bet, il dodicesimo capitolo, Seif, vedete la parola Seif, Seif vuol dire comma, comma 1, Seif Aleph. Scusa, poi si devono restituire, si può scrivere? No, no, potete scrivere. Ah, posso. Allora, Ketiv è scritto Hikon likrate lokecha Israel. Preparati, Hikon, lehachin, preparare. Hikon, sii preparato e sii degno di andare incontro al tuo Signore, o Israel. I maestri applicano questo versetto all'idea della preparazione prima della tefilah. Cioè che prima di pregare bisogna essere sicuri di essere nelle condizioni giuste, giuste di poter fare tefilà. Perché nella tefilà noi andiamo, incontro al Creatore e quindi ci sono delle condizioni. Perush, il senso è, Sheyachin et atzmo, che la persona si prepari, lifnei Hashem Yitbarach. Dinanzi ad HaKadosh Baruch Hu, prima di andare dinanzi ad HaKadosh Baruch Hu. Allora, innanzitutto, Sheyalbish et atzmo bemalbushe kavod. Cioè, lealbish vuol dire vestire. Una persona si vesta in una maniera rispettosa, che Sheolech litpalel, quando va a pregare, che mi Sheolech litnei sar nichbad, come uno che si veste bene prima di andare a trovare un ministro o un nobile importante. Chiaro che quando andiamo a porci davanti ad HaKadosh Baruch Hu non è da meno. Afilu in mitpallel beveito, e anche se la persona dovesse fare la tefilah dentro la propria casa, comunque yalbishe tatzmo karaui. Nonostante ciò, si deve vestire in una maniera degna per poter fare tefilah. Questa cosa dipende anche dall'usanza del posto, vuol dire, nell'Alakha si parla in altre opere dove si allarga il discorso, che in base anche al contesto locale, alla cultura locale, questo può cambiare, nel senso che in un luogo ci sono persone che girano in una certa maniera e non è considerato poco rispettoso, poco degno. In altro luogo, quello stesso modo di girare potrebbe essere considerato indegno. Allora, no? Infatti mi è mai risposto. Ecco, Tipo allora. al mare oppure in Esatto. particolare Sì, ma zona, in intendevo qualche più come contesto. cultura generale, Beh, non in no? un'occasione specifica. Non come occasione, più come cultura generale. Vuol dire, per esempio, nelle Caraibi, che anche i politici non mettono la giacca e cravatta, per dire. No? Faccio un esempio, non so neanche se è così, dico solo. Allora, non è necessario mettersi giacca e cravatta per tefilà, per dire, no? Invece, un altro luogo Ah, dove la sì, gente per ah, occasioni formali si veste meglio, allora anche per tefilà bisogna vestirsi meglio rispetto a come ci bisogna vestirsi nei Caraibi. È chiaro che il corpo deve essere coperto. La domanda che esiste nell'Alakha riguarda anche i sandali. E i piedi nudi, e anche lì si applica questo principio dell'usanza del posto. Se è considerato un segno di poco rispetto, allora ovviamente non lo fai la tefila ai piedi nudi. Anche lì potrebbe cambiare in base alla circostanza specifica. Vuol dire, se ci si trova al mare dove tutti vanno a piedi nudi, può essere diverso rispetto a un luogo normale, diciamo in città, dove non è normale vedere uno che va con i piedi nudi. Quindi ci anche sono nella geografia contesti, c'è sì, adesso non entro no, nel no, certo, ogni però contesto specifico, però diciamo che l'idea è l'Alakha quella. considera queste condizioni e circostanze e contesti per arrivare alla conclusione. Qui c'è solo un cenno a questa cosa, in questo testo, perché in quelle zone ci sono Oppure fa riferimento a luoghi in cui non si esce senza cingersi, senza una cinta. Allora in quei luoghi non si fa tefilà senza cingersi, perché è considerato come uno che non è completamente vestito, per dire, no? Come contesto culturale. Ma serve mica a noi, Cosa? tutto questo contesto, per dimostrare agli altri come mi vesto? No, Perché se io faccio tefilà, serve a noi. che mi serve? Cioè, non capisco questa cosa. Perché dipende dal luogo? Perché tu sei condizionato Certo. da come ti vesti. Quando tu ti vesti in costume da bagno, hai una certa disposizione. Quando ti vesti in giacca e cravatta, ti comporti in un'altra maniera. Chiedi a chi mette la Fai i divisa. famosi usi, no? Scusa, Ah, è vedi vero, ora è che vero. gioco. Se tu. I donne, gli scozzesi vanno con le Io gonne e hanno le gambe scoperte, Bravo. però non è. Sì, ma non è questo che dico. Sì, ho capito. Cosa, cosa? C'è una quello che c'è dentro. No, nel senso, vestirsi in un certo modo, nel senso, farlo in un modo, mi viene da pensare che per dimostrare a un'altra persona che mi No, ma guarda che che sto siete? pregando degnamente, Ma non non c'è una è. parola a No, persona, no, chi ti no. metteva Non proprio? è questo. Che ha detto? Non è per le altre persone, No, certo. Che ha è per ragione. te stesso. E la mattina quando ti alzi, ti senti dentro di te che ti devi presentare. Sì, no, Non vuol dire ti così. asseva, è dentro di Far te che la senti. Allora, ascolta, fare tefilà è un'occasione formale, non è un'occasione informale. Allora, nello stesso modo in cui quando ricevi un invito a un certo tipo di evento e c'è scritto che bisogna vestirsi in una certa maniera perché quella è la formalità dell'evento, allora l'Halakha ci insegna che la tefilà ha una certa formalità e quali sono i criteri, diciamo, per entrare in questa formalità. Vuol dire, il nostro legame con. Abbiamo già fatto questo Sì, discorso. Il appunto. nostro legame con HaKadosh Baruch Hu non è limitato solo alla tefilà, però la tefilà è un tipo di meccanismo, se vogliamo, ha delle sue prassi, ha delle sue regole. Una delle sue regole è il modo in cui ci si pone. Ok? Va bene. Allora, secondo comma, Sif Bet. Tov liten tzedakah kodem hatefilah. Ebbene, dare tzedakah prima della tefilah. E anche questo viene usata un'allusione di un versetto dove è scritto Shenemar, come detto, Ani bezedek echeze panecha. Echeze vuol dire vedere, vedo il tuo volto bezedek, attraverso la giustizia, tzedek tzedakah. Quindi prima faccio tzedakah e poi posso essere degno di vedere il tuo volto, cioè di presentarmi davanti a te, a Kadosh Baruch L'ultima riga Sì. del paragrafo sopra che Sì, volevo scusa, era quello della cinta. Bimkomo che no agin lelech b'chagorah, dove si usa cingersi, asur litpalel ad she'achkor et atzmo. È vietato pregare senza farlo. Allora, abbiamo detto Bezedek echeze panecha, gam yekabel alav kodem kol tefilah mitzvat ve'ahavta le'reacha kamocha. Questa è una cosa che è scritta in alcuni riti, in altri riti invece può anche essere, non è scritta però, è sempre valido come pensiero, cioè dice accetti su di sé la persona, yekabel alav, accetti su di sé, kodem kol tefilah, prima della tefilah, mitzvat, la mitzvah di ahavta le'reacha kamocha, ama il tuo prossimo come te stesso. Ora vediamo il motivo. Vichaven e quando fa questa accettazione di questa mitzvah, diciamo dentro di sé, sia intenzionata la persona, Yichaven, abbia in mente, le'ehov et come kavana, Yichaven, ricordate la parola kavana, le'ehov et kol echad mi Israel, di amare, di sentire un affetto verso ognuno di Israel, che nafshò come se stesso, come dice il versetto, ama il tuo prossimo come te stesso. Perché? Cosa c'entra con la tefilà? Perché prima della tefilà ci siamo ricordati di questa mitzvah? Ki im chas v'shalom, che se mai sia, chas v'shalom, yesh perud levavot Israel lemata, yesh vuol dire c'è, perud, se ci fosse perud una separazione, una divisione tra i cuori di Israel, tra una persona e l'altra, lemata qui in questo mondo, in basso letteralmente. Azai, allora gam lemala en hit achadut, allora anche in alto lemala manca unione. Quello che succede qui rispecchia poi, si rispecchia poi, fa rispecchiare anche sopra, nella fonte di queste Neshamot, come abbiamo studiato nel Hasidut, Knesset Israel. Ok? Allora se manca la unione qui, manca la unione lì. Aval itachadut begufehem shelemata, quando c'è l'unione nel senso fisico, fisico nel senso materiale, una persona va d'accordo con le altre persone, ama le altre persone, gorem itachadut udvekut nafshotehem lemala, gorem vuol dire causa, questo causa effettua una unione, hit achadut, vedete la parola echad dentro questa parola, le itached, unire, udvekud è attaccamento tra le nefashot, tra le anime sopra, quindi anche le tefilot si uniscono di conseguenza. Valie dei ze gam tefilotehem mitachadot, e quindi le loro tefilot si uniscono, perché siccome hanno, sono tutti della stessa idea, allora le loro richieste sono come una sola richiesta che si unisce davanti ad Akadosh Baruch Hu, e di conseguenza veaz, e allora biyot tefilotehem, nel momento in cui le loro tefilot sono kelulot yaha, tutte racchiuse una nell'altra, allora hiretsuya lefanavit barach shemo, allora la tefila è molto più ben voluta davanti ad Akadosh Baruch Hu. La kedusha. Esattamente, lì in questa maniera si garantisce la kedusha, bravissimo. Cioè, come un padre che vede i suoi figli che non sono uniti tra di loro, uno gli porta una richiesta, un altro gli porta un'altra richiesta, però non c'è armonia, allora anche la risposta a queste richieste è un altro tipo di risposta. Nel momento che le loro richieste sono tutte volute insieme e sono tutti ben voluti tra di loro, allora è chiaro che il padre ha un altro tipo di reazione nei confronti di una tefilà di questo genere, una paura che Akadosh Baruch Hu ha nei confronti di... Oh. Allora per questo è importante prima con una tefilà pensare o anche dire, in alcuni riti c'è anche scritto che si dice areni mikabel alai, no? Io accetto su di me mitzvata se la mitzvah positiva shel ve'ahavta le'reacha kamocha, di amare il tuo prossimo come te stesso. Non è sempre facile, però tanto dillo. Al punto è una richiesta di restare in silenzio, stare a cosa. Questa è una cosa del cuore. Questo è, infatti stavo per dire, sì, che significa, però penso ci sia una cosa, sì, poi parliamo. Perché? No, no, nel senso, sennò, non sennò è, draghiamo, cioè, questa non è una condizione della tefilà. No, è un di più. È un bene in più. Esatto. È un bene, capito, in più. Cioè, più è, più le Neshamot sono unite, più c'è chi l'uscia e più è, esatto, la tefilà. Da cosa dipende che le Neshamot siano unite? Da un semplice sentimento. Sì. Non vuol dire che tutti devono essere uguali. L'ebraismo riconosce che possono esserci in posizioni diverse, ci sono i riti diversi, ci sono... Non è questo, è a livello di cuore, a livello di riconoscimento, di dare validità... che quell'altro non, io non sono contro, anzi, beh, il concetto di Avat Israel va approfondito anche in un'altra sede, sì. Ora, un'altra condizione molto semplice, ma anche chiaramente accettabile, della preparazione verso la tefilà. Anche questo si appoggia a un versetto, almeno in maniera allusiva. Ktiv, vediamo nel Seif Gimel, qua è terzo paragrafo, Ktiv è scritto Shemor raglecha, fai attenzione alle tue gambe, kasher telech el beta elokim, quando vai alla casa del Signore. Che vuol dire fai attenzione alle tue gambe? Allora in maniera allusiva si intende dire vedarshu I nostri Rabotenu, i nostri maestri Zichronam Livracha hanno creato una derashah, un senso non letterale su questo versetto, dicendo che Raglecha, Hainu, Hainu vuol dire cioè, quando dice Raglecha, le tue gambe, si riferisce ai Nekavim, alle cavità, Sheetz la Raglaim, che sono vicino a dove partono le gambe, cioè, detto in parole semplici, una persona deve andare in bagno prima della tefilà, cioè occuparsi di cose corpo, di, del corpo, se ha bisogno, pensarci prima di fare tefilà, in modo tale da arrivare alla tefilà in maniera pulita, in maniera che non ha bisogno di preoccuparsene dopo, durante la tefilà. Velachen, e perciò, tzarich livdok et atzmo kodem tefilah, la persona debba controllare se stesso, letteralmente, prima della tefilà, imeno tzarich lasot tzerachav, se ha bisogno o non ha bisogno di pensare ai propri bisogni. Veim margish atzmo, se si sente, afilu ktzat argashali tzerachav, anche non una cosa molto urgente, ma sente che forse dovrebbe occuparsi di questo, allora assurlo leit palel, in quel momento gli è vietato fare tefilà finché non se ne occupa. Poi non solo per non interrompere, ma proprio perché è anche un concetto idealmente di pulizia generale. Assolutamente, soprattutto, soprattutto. E questa stessa cosa la applichiamo anche alle parole della Torah, come adesso vediamo. Filu bedivre Torah, anche mettersi a studiare la Torah, assur, sarebbe in realtà vietato, kol zeman shegufo meshukatz, quando il suo corpo è, diciamo così, non idoneo, sporco tra virgolette, finché non pulisca il proprio corpo, nel senso che vada a fare i propri bisogni. Ubediavad vuol dire a posteriori, vuol dire se è accaduto che ha fatto tefilà o sta facendo tefilà mentre in realtà dovrebbe andare a fare i propri bisogni. Im hitpallel che se un itzrach le nekavav, quindi sta facendo tefilà, ma avrebbe anche altre cose da fare. Im hu mesha'er be'atzmo. Allora qui è un aspetto molto tecnico della halakha, per dire la tefilà che ha fatto è valida o non è valida? Siccome l'ha fatta in una condizione in cui non dovrebbe avuto farla, allora la domanda è se la tefilà è valida o meno. Allora anche la risposta a questa domanda è molto tecnica. Dipende l'urgenza della cosa, praticamente. Cioè, dice imu meshaer beatzmo, se lui riesce a leshaer estimate, come si dice, stimare, estimate, yes, valutare, valutare. Se lui riesce a valutare dentro di sé che avrebbe potuto aspettare un po' più di un'ora, cioè, sì, circa 72 minuti, bravo, cioè cholamid etzmo shiuri luch parsa, che è una certa misura del cammino di una parsa, che è una, un passo. Non un passo, è come un chilometro e qualcosa, più di un chilometro, che sarebbe un'ora e un quinto, cioè 72 minuti, allora tefilato tefilà. Cioè, se la cosa non era così urgente che avrebbe potuto fare questo, passare questo tempo, allora la tefilà a posteriori è valida. Ma se no, vim lav, se così non fosse, afilu bediavadi mitpalal, anche se a posteriori ha già pregato, vuol dire comunque la tefilà l'ho già fatta, mincha, no? È orario di mincha, devo fare mincha, devo andare in bagno. Vabbè, non ho tempo, faccio tefilà prima. No, non va bene, però se l'ho fatto, allora dipende da questa condizione qui. Se avrebbe potuto passare questo tempo, allora la tefilà una volta fatta è valida. Però se non avesse potuto passare quel tempo, allora la tefilà non è valida. Tefilà toto e va. Come diceva Alberto prima, la sua tefilà è considerata abominevole. To e va, una cosa disgustosa. Pregare in quelle condizioni. E tzarich lachzor ulit palele, deve tornare a pregare di nuovo. Andare in bagno entro 72 minuti oppure no, contrario. Tu devi essere in grado di valutare. Per cui è la valutazione. Ti conviene che aspetti direttamente. Se basta. Urgente, aspetti. No, è la valutazione. Il 72 minuti sono in teoria, non sono in pratica che devi aspettare. Se devi correre, non ne faccio. Sì, ma questo che vuol dire? Signori, non devi ripetere dall'inizio di Shacharit. No, ma lo, tipo Minchà, sto facendo Minchà. Allora devi rifare la Midah. V'yesh omrim, perché ci sono delle altre opinioni secondo le quali che se può valutare di poter aspettare questo periodo di tempo, allora lì è permesso a priori fare la tefilah, secondo altre opinioni che sono più facilitanti. Affilo le katkhila, parola chiave, le katkhila a priori, bediavad posteriori, le katkhila a priori. Affilo le katkhila mutarlo litpalel, mutar è permesso a priori, secondo queste opinioni facilitanti nell'alaha. E quindi se si rischia di perdere il tempo della tefilà, l'orario della tefilà, Mincha sta facendo notte, per esempio, e si rischia di perdere il tempo, allora ci si appoggia a queste opinioni qui per fare la tefilà, se si valuta di poter avere quel tempo. Yesh lismoch al ze, e ci si appoggerebbe a queste opinioni, im hu be inyan, se ci si trova in un contesto in cui shebe oce ipane, che mentre la persona va a fare i propri bisogni, yavor zman tefilah, passa via il tempo dell'orario della tefilah, e allora in quel caso ci si appoggia a queste altre opinioni e a priori si fa la tefilah in quel momento. Ok? No, non ho capito. Cosa non hai capito? Abbiamo visto che se uno valuta che ci sarebbe questo tempo che potrebbe aspettare, ok? Sì. Ma se lui sta facendo la mincha, sì, e non può continuare a fare la preghiera, sì, e passa il tempo della mincha, sì, e come fa? Dipende. Non ripete? No, dipende. Se avrebbe questo tempo volendo in teoria a disposizione, se potrebbe trattenersi, aspettare questo sì, tempo, allora, no, allora fa la tefilah. Se no? Se no, allora va in bagno, allora poi perde, fa la tefilah. Perde del minha. Poi chiama il rabbino e chiede come fa. No, veramente? Poi vede in base a che ora è esattamente, se si può allungare un po', arrivare un po' dopo la schia, dipende dall'orario esatto. Poi probabilmente questi dettagli, perché uno può avere condizioni in cui bene, può non avere il bagno, la possibilità di fare, allora certo, fare certo, caso. Uno che viaggia, le normali, uno preparà prima, sape già le condizioni che sarebbero, allora tu sei preparato prima, non devi aspettare perché l'ultimo momento di farmi in casa, perché sai. Allora io sollevo un problema, viaggio, sì, se c'è gente che sta di salute, no, vabbè, non sta in salute tanto bene, c'ha dei problemi, come deve fare? Qualcuno che sta male, diciamo, dei problemi intestinali. Sì, parleremo di questo. Sì, sì. Non può controllare questa cosa. Vero, in quel caso non può mettere i tefilin. I tefilin, peggio, nel senso, serve ancora più accorgimento per i tefilin rispetto alla tefilà di per sé. Lo vedremo nelle leggi dei tefilin. Seif Daled, paragrafo 4, ed è legato a quello che diceva anche William. Mi ishe barilo, chi è sicuro? Sheino yachol la'amod al atzmo mi leafiach ad shigmor kriyat shma utfilah, che non, visto che ha problemi intestinali o qualcosa di simile, non ha la possibilità di controllare autocontrollo, che non lascia passare gas dal corpo finché finisce lo Shema e l'Amida nella mattina, allora dice meglio anche che passa il tempo e non fa la tefilah fino a dopo che sta meglio. Mutav sheyavor zman kriyat shema utfilah, è bene che passa oltre il tempo del limite di lettura di Shema e di Amidah, che è più tardi ancora, mimash itpalel belo gufnaki, che l'alternativa che sarebbe di pregare senza il corpo pulito idoneo. Vimavarsman tefilà, e se è già passato il tempo della tefilà, quella domanda che tu hai fatto prima, è considerato anus. Anus vuol dire chi non ha fatto una cosa senza intenzione. Non solo senza intenzione, come se fosse forzato. Causa di forza maggiore. Ones, bravissimo. È più di senza intenzione. Sì, sì. Senza intenzione si chiama shogeg nel termine alachico. Questo si chiama ones. Ones vuol dire proprio come se qualcuno con una pistola te l'ha fatto violenza. Non fare. Come se fosse a causa di forza maggiore. Questo è il termine in italiano. Allora, visto che è a causa di forza maggiore, allora può riprendere questa tefilah facendo due volte l'amidah di Mincha, per esempio se era Shachrit quello che ha mancato. In generale l'alaha è, se uno manca una tefilah, alla prossima tefilah fa due volte l'amidah per recuperare. Ma questo è solo se lo manca per ones, per causa di forza maggiore. No, se lo manca perché apposta o anche senza intenzione, diciamo shogeg, deve essere proprio una cosa che non c'era altro modo. Ok? Allora lì può recuperare con la seconda tefilah. In questo caso che il suo corpo non era idoneo e quindi non poteva fare tefilah, lo consideriamo come se fosse ones, come se fosse causa di forza maggiore, quindi può recuperare nella prossima tefilah ripetendo l'amidah al posto di quella che non ha fatto. Un mashlim achar kach, e la può recuperare dopo, come spiegheremo più avanti, sempre nelle leggi della tefilah. Chi delle kaman, kaman vuol dire come più tardi vedremo, siman kafalef, capitolo 21. Ve im yerae lo, e se gli sembra alla persona, sheyachol la'amod al atzmo, che si può controllare la sua situazione, anche se solo per il tempo di dire lo Shema, bisheat kriat Shema, allora l'alaha suggerisce yaniach tefilin, che metta i tefilin non all'inizio, ma proprio prima di dire lo Shema, ben habocher be'amo Israel be'ahava, dopo che ha detto habocher be'amo Israel be'ahava, allora mette i tefilin, dice lo Shema con la berachà, dice la berachà dei tefilin, fa lo Shema e subito dopo lo Shema toglie i tefilin e continua la tefila. Questo abbiamo detto, se gli sembra... Sembra che riesce a controllarsi, ce la fa per, solo per il tempo di dire lo Shema, per il tempo limitato. Se uno sta male, già lo sai, non metti i tefilin. Se uno sta male e sa che però sul tempo, ti sbrighi, che può avere 5 minuti, giusto? Sì, se uno farlo, dalla sua esperienza capisce che 5... Farlo. Sì, certo. Sì, che però come ha detto il serato, cioè, metti subito prima alla fine della Shema. Quello abbiamo detto. Sì, ma tu parli di una persona sana, ma una persona malata non può capire se gli viene, non beh, gli viene. Dipende qua, quanto dipende è malata. Dipende quanto è malata. Quello è. Ogni situazione è differente. Qui è difficile cercare di dare delle regole a delle cose impreviste. Certo, perché ogni situazione può essere diversa. Qui si tenta di cercare di sbrogliare al massimo quello che si può fare. Allora, un'altra preparazione prima del tefilà è il lavaggio delle mani. Tzarich lirchotz et yadav b'mayim ad haperek. Ci si lava le mani fino al polso. Nitilat yadayim, prima della tefilah. Kodem tefilah. Velachen, e perciò, af al pi sherachatz et yadav baboker, se uno avesse già fatto la nitilat yadayim la mattina, come abbiamo visto in precedenza, però se dopo aver fatto quella nitilat yadayim, forse ha toccato qualcosa che richiede di nuovo la nitilat yadayim, come abbiamo visto le altre volte, certo, le varie condizioni. Im naga, se ha toccato, achar kach, dopo, successivamente, beyadav, con le mani, beise makom metunaf, in un luogo che è considerato non pulito, cioè, dehainu bim komota mechusim ba'adam, nei luoghi del corpo che normalmente sono coperti, si esham il mulesea, che potrebbero esserci un po' di sudore, o se chikech berosho, oppure si è graffiato i capelli, la testa, O se l'ore chazan babocher ad aperek, oppure se la mattina non li ha lavati effettivamente nitrat adaim come si deve, qualsiasi situazione che richiede nitrat adaim lo deve fare appositamente per la tefilah, senza berakha. Tzarich lachazor ulerochzan kodem ha-tefilah. E beh, deve tornare a rilavarle prima della tefilah. Se uno non ha l'acqua a disposizione, abbiamo visto anche questo aspetto, vimen lo maim, e se non ha l'acqua, tzarich lachzor acharehem, deve cercare l'acqua. Lechet lefanav arba'a milin o leacharav mil. Il contesto, soprattutto quando si parla che non ha l'acqua, è un contesto di uno che viaggia e si applica un'idea di dover continuare a viaggiare o andare appositamente a trovarla. Allora la regola è di proseguire 4 mil, diciamo 4 miglia, come indicazione generale, non è la misura esatta però, oppure tornare indietro un miglio. Vuol dire c'è anche un po', dovrebbe tornare indietro per cercare o avanti, però in ogni caso ve imitiare, se ha paura, giriamo la pagina, se mi toccachia avor smantfilà, però se va a cercare l'acqua e passa il tempo della tefilà, passa l'orario della tefilà, allora menache yadav bitzroro beafar, allora si strofina le mani, si lava le mani su qualche pietra, su qualche terra, o bechol mi dede manche, qualsiasi cosa che pulisce, un mitpalel. Come abbiamo visto anche... L'erba può essere buona. Eh? L'erba, strappare ma l'erba... Ma del deserto dove la trovi? No, parlo del deserto. Ho parlato del deserto? Tipo, qualsiasi cosa. Stai per strada, sei rimasto come c'è nel deserto? Devi farmi in casa, stai in autostrada, se può prendere un ciuffo d'erba e strofinare le mani con l'erba. Io credo che strofinare sulla macchina è meglio dell'erba, o su qualcosa di duro. Non sai cosa. Comunque c'è scritto qualsiasi cosa che pulisce, vuol dire anche oggi abbiamo le salviette umide, oppure molti girano con l'alcol, quello lì, il gel, no? Sì, quello sì, che... sì, sono tante cose che possono pulire. La mucchina anche nell'erba. Steve, come è scritto? Quando sto facendo di un pozzo. Eh? No, mi stavo dicendo allora che mi sto lavando... Ieri ho ritratto una fotografia e mi stavo lavando in una pozzanghera d'acqua. Ah, addirittura. Beh, questo però in un teatro di guerra. Sì, ma la pozzanghera non è... Tu potevi fare il mikve già che ci stai. È cascetto della validezza. Dichtiv è scritto Erchatz benikayon kapai, scritto nel Teilim, se non sbaglio. Lavo le mie mani benikayon, pulizia, per arrivare a pulizia, seconda riga della seconda pagina. Dichtiv erchatz benikayon kapai, lavo le mie mani con la pulizia, in pulizia, e poi c'è scritto vasoveva et misbachacha Hashem, qui non è citato, cioè e giro intorno al tuo altare o Hashem, cioè il senso del servire Hashem, di andare in tefilà, è preceduto, si allude che è preceduto da questo lavaggio delle mani, di questa pulizia. Erchatz b'mai, e inoltre si interpreta questo versetto come per dire Erchatz, perché il versetto si ripete, dice Erchatz, lavo, benikayon, in pulizia. Beh, se li lavi si puliscono, perché devi ripetere in pulizia, no? Erchatz b'mai mi mefshar, vuol dire se c'è l'acqua li lavo con l'acqua. Se non c'è vim lav, se non c'è benikayon, con qualche altra cosa che pulisce. Comunque arrivo alla pulizia. Bechol mide de manche, in aramaico... qualsiasi cosa che pulisce, dimmi na che. E se uno ha fatto la nitrat adaim la mattina, però poi non è sicuro, cioè se è sicuro che ha toccato un'altra cosa, allora deve fare per forza di nuovo la nitrat adaim prima di tefilà, ma se non è sicuro, allora il prossimo paragrafo dice anche in quel caso è bene comunque rifare. Vim rachatz yadav baboker, se ha lavato le mani la mattina, karaui, come si deve, veni adualo, e non è a sua conoscenza, non si sono sporcati necessariamente, shenitlach lechu yadav, che le sue mani sono sporcate, beze davar, con qualche tipo di qualsiasi cosa, cioè non sa, ha il dubbio, mikol makom, tuttavia, che vance i siach dato, visto che ha distratto la sua mente dal pensiero della pulizia delle mani, Bentheim, intanto nel tramite, oppure anche se diciamo non è che ha fatto chissà che cosa, però stava studiando Torah prima della tefila, va filo l'amad, anche se studiava Bentheim tra il momento iniziale della mattina e quando ha fatto tefila, è considerata anche quella una distrazione. Gamken have hesach hadat, parola chiave, hesach hadat, distrazione della mente, lo troveremo in vari contesti di halakha. Vezarich gam ken le rochzam bamaim le tzorech tefila, e quindi deve anche lui pulire le mani, lavare le mani per, specificatamente per la tefila. Però in questo caso non lo deve cercare se non lo trova l'acqua. Cioè non è rigoroso come nel primo caso, perché lui qui non è sicuro. Nel primo caso era sicuro, allora deve proprio cercare l'acqua. In questo caso non è sicuro e di conseguenza lo deve fare, ma solo se ha la macchina, l'acqua disponibile. Ach bazè e no tzarich la chazora haramaim dafka. In questo caso non deve cercare o tornare indietro o andare avanti a cercare l'acqua. Dafka appositamente. Shim en lo maim ezumanim. Se non ha l'acqua pronta, dove si trova? Ubeim yachzor aleem, e poi se dovesse andare a cercare, magari yacher, farà tardi per tefilat hatzibur, per pregare con il pubblico, allora lo yachzor aleem, non li deve cercare l'acqua, e la menache yadav, solamente lava le mani, pulisce le mani, chol midede menache, che vuol dire chol midede menache? Con l'altro mezzo. Con qualsiasi cosa che pulisce. O mitpalel im hatzibur, e prega con il minyan, con il pubblico. E da qui entriamo nella prossima halakha, che parla proprio dell'importanza di pregare betzibur, con un pubblico, con un minyan. Una persona yishtadel v'yitametz, una persona si dovrebbe forzare, in un certo senso forzare, trovare, fare di tutto, diciamo così, fare il più possibile le itpalleli mazibur, di pregare, quando prega, di pregare con un minyan, con un zibur, cioè un pubblico. Dichtiv, anche questa è una cosa che troviamo un'allusione in un versetto, vani ed io, tefilati, la mia tefila, Lecha Hashem, verso te, o Signore, et razzon, in un momento propizio, et è un momento, et con una ain, e una tav, et con una tet finale, e una penna, ma et con una tav è un momento. Allora, et razzon, un momento volenteroso, un momento propizio davanti ad HaKadosh Baruch Hu. Qual è questo momento propizio? I maestri dicono, e matai et razzon? Quando è questo momento propizio della tefilà, della mia tefilà? Besha'a, nel momento in cui c'è atzibur mitpallelin. È il momento in cui la preghiera avviene con un minyan. Uktiv, ed è anche scritto, ko amar Hashem, così disse il Signore, be'et razzon aniticha. In un momento propizio ho dato risposta a te. Ho esaudito la tua richiesta. Ven HaKadosh Baruch Hu moes tefilatan sherabim. E i maestri dicono inoltre, ulteriormente, che HaKadosh Baruch Hu non disgusta, nel senso non rifiuta la tefilà di un pubblico. Va filu yesh bahem chotim. Anche se tra questo pubblico ci sono dei peccatori. Già il fatto di fare tefilà a un pubblico ha una potenza che non entra nel dettaglio del livello specifico di ognuno di questo pubblico. È come se fosse un'altra cosa, un pubblico che fa tefilà. Ed è una tefilà accettata. Dichtiv, hen kel kabir. Come detto, i maestri spiegano questo altro versetto anche, il Signore è potente, grande, eccetera. Perush rabim veloimas. Enkel il kabir veloimas. Allora, kabir viene tradotto in questo contesto come rabim. Quando davanti al Signore vengono kabir, venga un pubblico, Allora l'oi massa, Kadosh Baruch Hu non rifiuta, letteralmente non disgusta, cioè non rifiuta quel loro, quella loro richiesta, quella loro tefilà. E inoltre c'è scritto nel Teilim, un altro versetto citiamo, Uchtiv, Pada beshalom nafshi mikeravli, Kadosh Baruch Hu, Pada, Pada vuol dire riscatta, ha riscattato, beshalom in pace, nafshi la mia anima, da cosa l'ha riscattato? Mikeravli, da una guerra, da una battaglia che è contro di me, cioè dai problemi che ho, Kadosh Baruch Hu mi riscatta. Il versetto continua, chi berabim hayu imadi, perché i molti erano con me. E i maestri dicono, cosa vuol dire i molti erano con me? È un riferimento alla tefilah betzibur, la tefilah fatta con minyan. E i maestri dicono ulteriormente, qui non è citato, che vada beshalom nafshi mikravli ki berabim hayu imadi, chiunque si occupa di gemilut chassadim, di aiutare altri, di riscattare, no? Di aiutare altri da un problema. E di pregare con il tzibur, di pregare con il pubblico, berabim ayomadi, allora è come se Kadosh Baruch Hu dicesse, è come se facendo questo noi avessimo riscattato lui e i suoi figli dalla prigionia nei popoli, cioè l'esilio, che è considerato una prigionia, diciamo, a livello anche spirituale, a volte anche materiale, del Am Israel, e che nella stessa cattività c'è anche la Shekhinah, Kadosh Baruch Hu, diciamo, ci accompagna, per così dire, come dicono i Chachamim. Il riscatto da questa situazione è grazie anche alla Tefilah Betzibur, la tefilah fatta con minyan. Quelli che partecipano a questi programmi della tefilah pubblica, riscatta tutti quelli che sono componenti di quella tefilah pubblica. Beh, questa cosa che ho citato prima è un riscatto più a livello generale, che aiuta a un riscatto comune, collettivo. Anche se in mezzo a questo pubblico c'è gente che non dovrebbe, diciamo, fare anche la tefilah. No, dovrebbero fare la tefilah, tutti devono fare la tefilah, ma forse sono peccatori. No, ma anche se sono peccatori, anche... Anzi, peccatori. Anzi, concludo con questa cosa, che i maestri dicono che una tefilah, in particolare una tefilah speciale, tipo per un digiuno, per un problema, la tefilah è considerata in qualche maniera carente se non c'è un peccatore, perché è come se noi escludessimo qualcuno, non possiamo escludere nessuno, è proprio nell'unione che il tzibur diventa un tzibur e trova la risposta di quella tefilà, l'esaudimento di quella tefilà. Ok, con questo concludiamo oggi. Bruchim tiyu. Questo li teniamo noi, sì, tenete voi, poi li mettiamo nella prossima, nel prossimo libretto.